Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa è Italia in controluce, il programma di Radio 24 che indaga ogni giorno in due edizioni nella società italiana. Questa è la storia di Rosarno, una cittadina calabrese ad alto tasso mafioso, finita sotto i riflettori per una caccia all'immigrato. Siamo tornati a Rosarno con Cristina Carpinelli. Due anni fa, era il 7 gennaio 2010, a Rosarno esplose una violenta rivolta degli immigrati, quasi tutti africani, che risposero al ferimento di due loro compagni. Il paese fu sconvolto dalla violenza che nel giro di qualche ora portò una sconosciuta cittadina calabrese alla ribalta nazionale. Queste erano le voci dei protagonisti. Non lo sappiamo cosa dobbiamo fare stasera! Io vi dico che qua non si risolverà niente, state tranquilli. No, non vogliamo giustizia da sole, ma noi li abbiamo accolti. To kill black men, we are not dogs, we are human beings, that is why we want. Only. La problema di lavoro e la problema di... c'è tanti problemi qui. Spara bene, Rosarno non buono, Rosarno non è come Italia. A distanza di due anni, a Rosarno gli immigrati sono tornati a raccogliere le arance calabresi. La situazione è davvero molto grave, ci racconta il direttore della Caritas, Vincenzo Alampi. Bisogna fare di più, bisogna dare dimostrazione che noi possiamo. Se c'è un terremoto, si montano le tende, sì o no? Qua è un terremoto, è un terremoto. Si mettono i prefabbricati, sì o no? Subito, quelle tende sono da farle subito. Questo è il punto. I migranti a Rosarno sono circa 1000 oggi, ci racconta Don Vincenzo. Soltanto 200 persone però ogni giorno lavorano. Gli altri restano ad aspettare e anche questo è un tema di forte preoccupazione. 1000 lavorano un 200. Capito? E quindi sono almeno 800 che non lavorano, oppure tra di loro che hanno una grande solidarietà, si scambiano il lavoro e lavorano un giorno uno, un giorno l'altro, e quindi così riescono a tirare avanti, ma la media è di una o due giornate alla settimana che fanno ciascheduno, quindi è una cosa. Loro sono dislocati in vari posti, tra cui un posto che sta diventando famigerato, la Pomona, dove era una vecchia industria per l'estrazione del succo d'arancia, abbandonata, loro l'hanno occupata e ci vivono veramente in un modo tremendo, terribile, non è una vita quella, non c'è acqua, non ci sono servizi igienici, non c'è luce elettrica, quindi vivono una vita tremenda, tremenda. Io stanotte pioveva da noi qua, e stavo pensando proprio a loro. Però una cosa che non viene fuori in questo racconto è che c'è ancora il caporalato, cioè c'è ancora questa figura che arriva a sfrutta. C'è sì, senz'altro, ma è una figura, diciamo che non c'è un classico caporale, non c'è io in quest'ultimo periodo, per esempio, non ho visto la 'ndrangheta che c'era 2, 3 anni fa, 4 anni fa, non c'è. C'è il piccolo proprietario che sfrutta, che passa, prende da giornata il lavoratore, e questo ancora c'è qualche cosa, anche se è stato abbattuto il lavoro nero, possiamo dire assai, perché i proprietari hanno paura di prendere a giornata un lavoratore immigrato, perché sanno che possono essere sanzionati pesantemente e quindi stanno attenti, no? Ma qualche cosa c'è, non c'è il caporalato, perché questo lo possiamo vedere e lo vediamo, però ancora non è che ha una grossa paga, parliamo di 25-30 euro ancora, parliamo di un euro a cassa di arance, di mandarini, che poi raccolgono 26-28 casse di mandarini, quindi guadagnano 27-28 euro, non è una paga. Non è una miseria, è una miseria. Però pensiamo pure a una situazione di una politica agraria che dalle nostre parti non c'è, che non la sostiene l'agricoltura. Perché? Perché se si pagano i mandarini e le arance, si pagano a 6-7 centesimi, 5 centesimi, i proprietari non riescono a far raccogliere le arance, e le arance sono tutte sugli alberi. Meno 'ndrangheta e tante arance sugli alberi. È un mondo, quello agricolo calabrese, che sta arrancando, sopraffatto da anni di criminalità organizzata. Eppure quest'anno qualcosa è davvero cambiata. Come ci dice il sindaco di Rosarno, Elisabetta Tripodi, una donna che vive sotto scorta perché da un anno alla guida del paese ha deciso di battersi e impegnarsi a fondo per portare a casa un successo, il rispetto delle regole. Alla criminalità organizzata, che gestisce anche il flusso dei migranti a Rosarno, questa donna sta dando molto fastidio. Amministra un territorio non facile dal punto di vista della presenza della criminalità organizzata. E con la mia giunta, con i miei consiglieri, abbiamo intrapreso un cammino di rispetto delle regole, più che di battaglia antimafia gridata. E questo ci ha portato a dover fare delle scelte che non sempre sono facili. E in particolare abbiamo dato esecuzione a un'ordinanza di scombro di una casa abusiva che era in possesso di una famiglia, abitata da una famiglia che... i cui esponenti, molti di questi esponenti sono in carcere per accusati di reati di mafia, anche condannati dal CASPRO. In seguito, in più, ci siamo costituiti parte civile in un processo per mafia contro una cosca del nostro paese. Queste due attività poi sono state censurate in una lettera che io ho ricevuto, spedita dal carcere di Opera quest'estate, dove venivamo accusati di aver fatto queste cose, questa nostra attività amministrativa, come se ci fosse un accanimento. Questo ha comportato che dal mese di settembre mi è stata assegnata una tutela personale di questo livello, per cui io vivo sotto scorta. E la gente di Rosarno le è vicina, sente che non è sola, diciamo, oltre ai suoi colleghi? Io ho ricevuto molta solidarietà quando è successa questa cosa. Abbiamo fatto un consiglio comunale aperto in cui tutto il consiglio comunale ha deciso di costituirsi sempre parte civile in questi processi. Sindaco Tripodi, lei ha scelto proprio di fare il sindaco a Rosarno, perché è una città, come diceva lei, in cui se vuoi fare il sindaco bene devi sceglierlo, cioè insomma devi essere consapevole di quello a cui stai andando incontro, ed è una persona estremamente giovane e competente. Sente, diciamo così, che il lavoro che state facendo, quindi quello di cui parlava all'inizio, cioè quello di riportare all'ordine, no, le cose, è proprio quello che serve per combattere la criminalità organizzata, è quello che proprio dà più fastidio alla criminalità organizzata? Io penso di sì, penso che comunque questa esperienza comunque vada a finire e segnerà uno spartiacque rispetto al modo di amministrare il precedente. Sindaco, 2 anni fa ci furono quei violenti scontri che portarono Rosarno alla ribalta, perché per questo Rosarno poi è diventata famosa in Italia. Oggi com'è la situazione? Ovviamente gli africani sono tornati già un mese dopo la rivolta e non ci sono più quelle tensioni sociali che scatenarono, i molteplici fattori che scatenarono la rivolta. È ovvio che comunque la situazione, da un lato, paradossalmente, io ho già detto l'anno scorso, sembra essere peggiorata perché è più forte la crisi economica e quindi per gli extracomunitari africani che vengono a lavorare da noi ci sono minori possibilità di lavoro. Oggi i numeri, siamo sulle 1000 unità che sono presenti nel mio territorio, sono numeri molto alti che arrivano a novembre e vanno via ad aprile. Ci siamo attrezzati con un centro d'accoglienza, con un campo provvisorio che quest'anno riusciremo a dare ospitalità a 150 persone, ma non è sufficiente, anche perché lo stiamo facendo con le nostre risorse finanziarie, capisce che questo è molto difficile. Certo. Ora abbiamo ricevuto una promessa di finanziamento da parte della provincia e stiamo affrontando insieme ad altre istituzioni. Ovviamente quello che è avvenuto fa sì che oggi il fenomeno non venga più sottovalutato, mentre per 20 anni era stato lasciato all'autonomia delle singole associazioni di volontariato che avevano dato di dare aiuto, ma senza un intervento ufficiale delle istituzioni. Oggi questo per fortuna non accade, è una sintesi, un equilibrio difficile da raggiungere, anche la coesistenza tra gli immigrati e i rosarnesi, perché noi abbiamo varie forme di immigrazione, non abbiamo solo l'immigrazione africana che è quella stagionale, abbiamo anche un'immigrazione neocomunitaria di soprattutto Bulgaria e Romania e anche dell'est Europa che invece è stanziale. Quindi il mio paese è un paese sicuramente multiculturale e multietnico. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Questa puntata è in podcast su radio24.it. Per comunicare con noi usate pure Facebook, pagine gruppo, Twitter, il blog sul sito della radio oppure la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 con nuove inchieste, nuovi reportage e nuovi incontri e nuove interviste.